L'altra Europa. Una manciata di secondi alle 12:10. Buon sabato da Federico Taddia, questa è Radio 24, questa è l'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale con le storie, le persone, le opportunità, le possibilità di questa Europa che cambia, che si muove, che ha tanto da darci, alla quale tanto dobbiamo dare e alla quale tanto dobbiamo chiedere coordinate per trovarci anche virtualmente. Euronetplus.eu è il portale del network al quale apparteniamo, tante radio diverse nella stessa Europa, e per raccontare la stessa Europa e i miei account personali invece Federico Taddia sia su Twitter sia su Facebook. E puntata importante, puntata con belle storie, puntata dove andremo come sempre a parlare della nostra idea d'Europa. E come ogni settimana un viaggio, oggi però partiamo dall'Italia, andiamo a marciare con quelle 200.000 persone che ora a Bologna stanno dicendo il loro sì alla legalità. Corteo lungo 4 chilometri, 200.000 persone, siamo in 200.000 persone, ha detto poco fa Don Ciotti. Tra queste 200.000 persone ci sono anche pezzi d'Europa, perché Libera, l'associazione contro le mafie, è un'associazione che inizia ad avere antenne, così si chiamano, anche in giro per Europa. Ce n'è una importante a Parigi, ce n'è una importante a Bruxelles, quindi l'educazione alla legalità come tratto comune europeo. E in queste ore a Bologna stanno camminando anche persone che appunto arrivano da paesi stranieri. C'è con noi Maria Chiara Prodi, che è fondatrice di Libera France e collabora alla nascita di nuove antenne in Europa. Ciao Maria Chiara. Ciao Federico, ciao a tutti. Allora, state ancora marciando, state ancora portando... Allora, siamo arrivati in piazza e siamo al momento più alto della manifestazione, con la lettura dei nomi delle vittime innocenti della mafia. Uh-huh. E Maria Chiara, e allora... Sembra che siamo in 200.000, mi stanno detto dalle casse. Sì, infatti l'abbiamo appena detto anche noi. Maria Chiara, tu sei lì come le altre 200.000 persone per portare una testimonianza, per dire il tuo no alla mafia, alla illegalità, però sei lì anche con appunto questa voce europea. Che cos'è Libera Europa? Guarda, da diverso tempo è nata la consapevolezza che le mafie sono un problema internazionale, che come tale devono essere trattate. Per cui Libera da diversi anni ha dei progetti internazionali su cui è molto investita, e basti ricordare l'ultimo degli eventi che è stato fatto il 9 dicembre al Parlamento Europeo con Don Ciotti, proprio per dire no alle mafie dalle più alte istituzioni europee. E poi c'è quella rete di persone, di rete di associazioni che, come in Italia, sta cominciando a costituirsi anche nel resto d'Europa e nel resto del mondo, perché Libera è presente anche con la rete ALAS in Sud America. Libera.it è il sito per, ovviamente, di Libera, per conoscere tutte le attività. Oggi ci sono manifestazioni laterali sia a Parigi, anche a Bruxelles, sempre promosse da Libera. E poi con te ci sono dei ragazzi invece stranieri che hanno scelto di venire proprio a Bologna oggi durante la loro gita scolastica da Bordeaux per essere presenti in questa giornata. E credo ci sia Geoffrey, immagino, penso, spero sia questa la giusta pronuncia. Ciao Geoffrey. Ciao. Ciao. Tu parli italiano? Sì, un po'. Allora Geoffrey, come... Beh, intanto qual è l'umore, qual è l'impressione, come hai vissuto queste ore? All'inizio era un po' strano di vedere tutto questo mondo che si ritrova per camminare per una cosa bella, mm-hmm. ma è la prima volta che io faccio questo dopo l'attentato a Charlie Hebdo. Sì. Ma è bello, bello, molto bello. Quindi tu hai manifestato quel giorno a Parigi, oggi stai manifestando a Bologna. Hai sì. trovato cose comuni, cose simili? Tutti camminando insieme, bello, bello, ma... non so come si dice. Geoffrey, ma vi siete preparati a questa giornata? Voi avete incontrato gli esponenti di Libera nella vostra scuola? Sì. Nella nostra scuola sono venuti per spiegarmi quello che fanno, quello che perché sono qui, perché fanno questo contro le mafie. E quello che è il loro messaggio. Grazie davvero Geoffrey, grazie a te, grazie a tutti i tuoi compagni di classe, il liceo di Bordeaux, che hanno fatto questa attività in preparazione con Libera, e oggi sono a Bologna per portare la loro testimonianza. Maria Chiara, come sempre, questa marcia non è un punto d'arrivo ma è un punto di partenza, vero? Assolutamente, ci emoziona la presenza dei 25 ragazzi di Bordeaux, perché alla fine testimoniano che è un messaggio che supera i confini e che può essere portato anche dalle giovani generazioni di tutta Europa. Grazie davvero, ricordiamo che Libera France è anche su Facebook, c'è la pagina dedicata, oppure libera.it. Grazie a Maria Chiara Prodi, buona grazie giornata. Grazie. Adesso un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Euro post-it. L'Europa è per le donne. Ogni donna ha diritto all'istruzione, non importa dove vive. È lo slogan che il Parlamento europeo ha scelto per focalizzare la sua attenzione sull'importanza della formazione come deterrente alla discriminazione di genere. Donne, lavoro, istruzione e diritti sono i temi fondamentali del ciclo di incontri organizzato dall'Ufficio di Informazione del Parlamento europeo nelle sedi di Roma e Milano. L'iniziativa dal titolo L'Europa è per le donne prosegue per tutto il mese di marzo e vuole favorire il dibattito e la conoscenza sulle attività promosse dalle associazioni che si occupano di tutela delle donne e di uguaglianza di genere. Per il calendario e per tutti i dettagli, collegatevi al sito europarl.it. L'altra Europa. Un inno alla gioia in versione rock per continuare a parlare di Europa, perché l'Europa sarà uno dei cardini di Biennale Democrazia, la manifestazione culturale promossa dalla città di Torino, realizzata dalla Fondazione per la Cultura Torino dal 25 al 29 marzo 2015, è la quarta edizione di questo evento che si pone come obiettivo la diffusione della cultura della democrazia attraverso incontri, attraverso riflessioni, attraverso lo spettacolo, attraverso il coinvolgimento di tantissimi giovani. Passaggi in tutte le sue accezioni è il tema di quest'anno. L'Europa è terra di passaggi, l'Europa sta vivendo un tempo di passaggi, quindi l'Europa non poteva mancare. Tra i tanti incontri dedicati all'Europa ce n'è uno molto interessante il 28 al marzo alle 10.30 presso il Teatro Carignano, intitolato L'Europa e il mondo, Panta Rei, incontro con Luciano Canfora, che è qua con noi. Buongiorno Canfora, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, salute. Che Europa racconterà a Biennale Democrazia? L'Europa della storia e l'Europa delle storie? Una storia già scritta? Intanto l'Europa della storia sì, perché è interessante chiedersi quando è incominciato questo concetto, quando ne è venuta fuori la consapevolezza, dall'antica Grecia, dal mondo addirittura precedente, la civiltà greca, che non era europeo, era mesopotamico, era nordafricano, soprattutto egiziano, e quindi allargare lo sguardo. Poi capire quando è sorta questa consapevolezza, che uso ne è stato fatto, se è vero che esista un continente europeo propriamente detto, al di là della pura e semplice geografia. La storia va in altra direzione, lo sappiamo, il mondo anglosassone è un mondo a sé con una sua propria storia, un baricentro atlantico, e non a caso l'Inghilterra è un piede dentro e uno fuori rispetto all'Europa. Poi c'è il grande problema di un pilastro della cultura e della storia del nostro continente, che è la Russia, dai tempi in cui fermò Bonaparte, ai tempi in cui fermò Hitler, ai tempi in cui ha prodotto una letteratura di rilievo mondiale, che però viene rigorosamente tenuta fuori da questa unione. Quindi l'Unione è tuttora un problema, un gigantesco problema culturale e politico. Ma quindi la storia dell'Europa è in contraddizione con il suo futuro e con l'idea di Europa unita? No, non è in contraddizione, è ancora da farsi. Quella che abbiamo definito Europa unita è soltanto un angolino, uno spezzone abbastanza disuguale al proprio interno e rissoso, con una unità più apparente che reale. E invece, se è vero che esistono valori comuni, È certamente vero che ci sono e vanno ben oltre il nostro continente. Lo sguardo deve essere più ampio, non deve essere così strettamente Deutsche Bank. Quindi non è l'economia il punto di partenza, la politica fa fatica. Da dove si può ripartire, secondo lei, per ricostruire un'idea comune di Europa? Effettivamente lei dice il giusto quando dice che non va anteposta l'economia, perché sarebbe una idea, come si diceva un tempo, quella che domina attualmente il costume intereuropeo, volgar marxismo, no? Quando si diceva l'economia soprattutto. Abbiamo dato vita a una moneta tuttora molto sofferente e che crea più problemi di quanti ne risolva, ma non abbiamo altre forme di unità, anzi c'è una sospettosità reciproca. Allora davvero la questione non è di aggiustare quello che esiste, è di ripensarlo. Io credo che il manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli, che parlava in modo nobilissimo del futuro del continente, egli in quel momento era in un carcere fascista e aveva però una straordinaria capacità visionaria, lui diceva deve essere innanzitutto una grande rivoluzione sociale quella che darà vita all'Europa del futuro, e questo credo che purtroppo non sia ancora accaduto, anzi, e la cosa è atroce, l'attuale costruzione sta imponendo agli stati più deboli di distruggere lo stato sociale che ciascuno di essi aveva, la Grecia, l'Italia, certo, la Spagna, la stessa Francia. Quindi altro che rivoluzione sociale come la voleva Altiero Spinelli, stiamo facendo una restaurazione e questo non va bene. L'Europa e il mondo, Pantarei, ci saranno tanti giovani davanti a lei ad ascoltarla sabato prossimo, è un po' la nostra responsabilità fare una comunicazione che sia né ottimista né pessimista, reale di questa Europa, ma credo che insomma dire la verità è il punto più importante. Grazie davvero, buona giornata Canfora. Buon lavoro. Salve. Europost-it. Tirocinio in Europa per i giovani NEET. Lo Europe Direct del Comune di Modena ha cominciato la sessione di colloqui aperta a giovani NEET, ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano e che sono interessati a fare un'esperienza di mobilità internazionale nel quadro di Garanzia Giovani, il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Grazie al progetto iMove Orienta, gli iscritti possono beneficiare di percorsi di orientamento, incontri individuali e di un'assistenza personalizzata per candidarsi a un percorso di scambi all'estero. Gli interessati devono iscriversi al portale della Regione Emilia-Romagna dedicato a Garanzia Giovani. Il 21 marzo di ogni anno l'UNESCO festeggia la Giornata Mondiale della Poesia. In occasione di questa giornata, l'EUNIC, che è l'Unione degli Istituti di Cultura Nazionali dell'Unione Europea, ha promosso una giornata, una serata per celebrare questo importante appuntamento. Questa sera alle 21, questa sera alle 20 presso l'Istituto Polacco di Roma, 14 poeti di 14 paesi diversi si sono dati appuntamento appunto all'Istituto Polacco di Roma per la giornata mondiale della poesia. 14 voci, 14 suggestioni, 14 accenti, 14 lingue per celebrare questa lingua comune che è quella della poesia. Tra loro anche la poetessa croata Sara Zura Lukanić, che è qua con noi. Buongiorno Sara, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori della Radio 24 e buona poesia a tutti. Buona poesia a lei. Cosa rappresenta per voi poeti questa giornata? Questa giornata sicuramente che è stata istituita dall'UNESCO, come diceva bene lei, nel 1999, dà un riconoscimento alla poesia come un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo interculturale. Oggi, oltre che si celebra la giornata mondiale della poesia, è anche giornata mondiale di antidiscriminazione, quindi in qualche maniera si può con la poesia fare tanto. Come diceva Pasolini, la poesia è un bene inconsumabile, quindi forse ne abbiamo bisogno tutti per i poeti, a volte poeti diciamo sono nella ricerca, quindi in qualche maniera bisogna, anche loro si aggrappano alla quotidianità, e forse a volte bisognerebbe ascoltarli di più, ecco. Certo. Sara, stavo leggendo la sua biografia. Nata in Croazia, da anni vive e lavora a Roma, università a Fiume, per anni ha lavorato come sommelier e barista. Sì, ho fatto tante cose, quindi in qualche maniera, diciamo, poeti, insomma, sono anche calati nella realtà. Diciamo, camminando si adatta a varie situazioni, si intinge nella quotidianità, quindi forse sono anche gli esseri più adattabili, non lo so, a volte è incoscienza che ci guida, insomma. Ecco. Sara, quale poesia ha scelto per questa sera? Allora, io per questa sera ci stanno le poesie, questo è molto interessante, a dire che le poesie, quello che diceva lei prima, saranno dette in lingue originali, anche questo è, diciamo, una ricchezza di Europa di oggi. Sì. Anche per il mio piccolo paese è molto interessante. Io sono una poeta italofona perché scrivo in italiano, però è anche man mano tornavo alla mia lingua di origine, il croato, quindi anche questa è oggi, cioè Svizzera è rappresentata da una poetessa croata, cioè, mm-hmm. si chiama Dragica Rajčić, anche questo è molto interessante, quindi secondo me la poesia non conosce confini geografici, culturali, linguistici, quindi è anche questa è la bellezza e forse la salvezza nostra. Assolutamente. Della poetica. Allora io per oggi dirò due poesie. Una si chiama La bellezza non salverà il mondo, Giacomo Mie, e un'altra Ehi tu, ce la c'era pace. Però per voi oggi, sì? Ho scelto due poesie più corte, insomma, forse anche per, diciamo, motivi di lunghezza. Perfetto. Allora Sara, le chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo per motivi legati alla pubblicità, legati ai nostri orari, poi torniamo. Volevo solo dire l'appuntamento è all'Istituto Polacco a via Vittorio Colonna numero 1. Perfetto. Alle ore 20. No, ma torniamo immediatamente da lei, così appunto ascoltiamo le poesie e ricordiamo l'appuntamento di questa sera. Fra pochissimo. Europostit. Let's clean up Europe. Puliamo l'Europa. Ogni anno milioni di tonnellate di rifiuti vengono abbandonati nel mare, nei fiumi e nei boschi. Inquinano, deturpano il paesaggio e minacciano la salute di persone, animali e ambiente. Allo scopo di accrescere la consapevolezza sugli stili di vita sostenibili, torna la seconda edizione di Let's Clean Up Europe, la campagna europea contro l'abbandono dei rifiuti. Dall'8 al 10 maggio saranno organizzate iniziative di pulizia dei territori, in contemporanea, in tutto il continente. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 aprile. Collegatevi al sito www.r.eu. L'altra Europa. Ancora buona è sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Chiocciola Federico Taddia su Facebook e su Twitter per seguire le nostre bacheche virtuali che aggiorniamo con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Oppure radio24.it, il nostro sito da dove poter riascoltare la puntata e ritrovare tutti i post-it e tutte le indicazioni e le dritte che abbiamo dato. Stiamo parlando della giornata mondiale della poesia e della iniziativa dell'EUNIC, l'Unione degli Istituti di Cultura Nazionali dell'Unione Europea. Questa sera presso l'Istituto Polacco di Roma alle 20, 14 poeti, 14 lingue diverse, 14 e più poesie per celebrare questa giornata con un linguaggio comune, che è quello poetico. Siamo in collegamento con Sara Azura Lukanić, che questa sera rappresenterà così la Croazia, ma non solo. Allora Sara, siamo pronti, sono consapevole che non sia molto poetico declamare queste poesie via telefono, però insomma ci proviamo, va bene? Senz'altro. Ok, guarda, ti cambiamo base, ti mettiamo anche una musica un po' più adatta, spero, a creare l'ambiente, e lasciamo alle tue parole il microfono. Che fonda un teatro. Ma cos'hai da guardare con quella palpebra appesantita dal sole cocente? Non avere misericordia per la mia storia d'immigrata. Piuttosto girati verso la tua bambina che piange disperata. Quando le dici che di chi ha mai visto una bambina così grande che piange per una cosa così piccola? Benedetta la città che fonda un teatro, non è la mia. Sono sicura che sarei stata felice con te nella verde aiuola della nostra casa, mai costruita, nelle passeggiate in giornate di festa, malinconiche sotto braccio, nella nostra città borghese e vecchia, dove le lucine delle vetrine si confondono con le lacrimucce dei bimbi frastornati. Sono sicura che sarei stata felice con te, ascoltando la cavalcata delle valchirie nella platea del nostro teatro, mai costruito. Sono sicura che sarei stata felice con te nel tirare a indovinare chi di noi due sarebbe morto per primo. Sara, grazie davvero per... Grazie a voi e per aver partecipato. Ricordo che la poeta Silvia Bre rappresenta Italia, quindi sono veramente molto contenta che ci siano tante poete donne, quindi anche la forza di vedere il mondo diversamente. Istitutopolacco.it è il sito per tutte le informazioni. Ciao Sara, buona poesia, grazie ancora. Grazie a voi. E adesso passiamo a qualcosa invece di molto più concreto. Andiamo a cercare lavoro in Europa. Andiamo a cercare lavoro, lo facciamo con un test interattivo, si chiama theeuropeanjob.eu, questo è il sito, un test interattivo sviluppato per la rivista Wired da Alessandra Spagnoli, Filippo Trameri e Donato De Ieso, che di fatto ti fa scoprire il tuo profilo professionale più richiesto in Europa, si basa su dati Eurostat, insomma su statistiche ufficiali di quelle che sono le varie tendenze europee. Con noi c'è Filippo Tramelli, è un socio della cooperativa giornalistica Primo Piano, collaboratore di Wired, quello che ha un po' coordinato tutto il lavoro. Ciao Filippo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, ciao a tutti. Allora, che cos'è questo test interattivo? Ma allora, The European Job è un data game praticamente per scoprire la situazione occupazionale nei paesi dell'Unione Europea. Sì. Non è un motore di ricerca di lavoro, è invece un gioco interattivo che è basato su dei dati reali, come dicevi tu appunto, dati che abbiamo preso da Eurostat. La cosa, insomma, divertente, tra virgolette, che uno fa il test e poi alla fine può ritirare il suo passaporto per l'Europa, perché poi alla fine del test compare un facsimile, diciamo, con un avatar in base alle caratteristiche che uno ha messo, quindi età, sesso, data di nascita, eccetera, per avere appunto, poi volendo l'aspetto social, può condividerlo sui social e quindi quello è l'aspetto un po' più ludico, certo. Diciamo. Allora, quindi uno scopre dove, due cose può scoprire. Uh-huh. Una, il paese che può cercare la sua professionalità. Okay. Quindi in base alle sue caratteristiche, quale sarebbe il paese più adatto dove, tra virgolette, espatriare. Altra cosa invece, se uno è soddisfatto del suo lavoro, perché a un certo punto c'è la domanda: ti piace il tuo lavoro? Sì, no. Se uno dice: il mio lavoro mi piace, ti fa vedere il giochino dove attualmente la tua situazione lavorativa, la fotografia del paese più adatto a te in questo momento. Perfetto, tu lo chiami giochino, in verità è un test che, come hai già detto, si basa su dati reali. Sì. Dimmi cosa fai e ti dirò in quale paese potresti lavorare. Questo è il sottotitolo, TheEuropeanJob.eu, il portale per fare il test. Dacci però qualche visione, così svelaci un po' il background del test. Allora, appunto, abbiamo incrociato diversi dati. Eurostat, che si trovano sul sito ec.europa.eu/Eurostat, e li abbiamo incrociati anche con dei dati dell'OCSE, del Better Life Index dell'OCSE. Praticamente siamo andati a cercare queste, cioè, a partire, diciamo, è stato un lavoro di data journalism, oltre che di, appunto, vabbè, la parte grafica e la parte poi di sviluppo che hanno curato Alessandra Spagnoli e Donato De Jeso. Siamo andati a trovare, appunto, il tasso di occupazione e disoccupazione, suddiviso per età, sesso, livello di istruzione, poi lavoratori a tempo indeterminato, determinato, autonomi, tasso di posti vacanti, stipendi e ferie, questo da Eurostat. Invece l'OCSE ci ha dato altri dati, tra cui stabilità del posto di lavoro, equilibrio lavoro-tempo libero, soddisfazione personale e stipendio. Noi quindi siamo andati a creare dei grandi database. Dei grandi incroci, però faccio un paio di esempi, cioè, se uno fosse un aspirante medico, per dire, adesso ho preso una categoria a caso, ma dimmi. Medico al momento non te lo so dire, però ad esempio se tu volessi intraprendere una, appunto, volessi fare il cameriere o lanciarti nell'attività della hospitality o del food, della ristorazione, anche se il paese non è messo benissimo, come sappiamo, la Grecia sarebbe il tuo paese adatto, perché in Grecia stanno cercando molte persone nel settore della ospitalità e ristorazione. Germania e Belgio, beh, sono due corazzate, vanno bene ad esempio per attività professionali di vario genere, quindi avvocato, commercialista, ingegnere, pubblicitario, architetto, consulente o ricercatore amministrativo. La Spagna, ad esempio, vanno forte le professioni artistiche e quelle di intrattenimento. Macro settore, che cosa vuol dire? Anche ad esempio musei, biblioteche, archivi e programmi radiotelevisivi. Praticamente noi l'Eurostat che cosa ci ha detto? Ci ha detto appunto delle macro professioni. Queste professioni sostanzialmente sono riferite ai codici Ateco, sono quei famosi codici che uno, quando deve aprire una partita IVA per un'attività, ritrova appunto in macro settore, che poi piano piano si profila sempre di più. Hai fatto il test sì. Su di te? Sì, l'ho fatto, io devo andare in Irlanda. Ah, vabbè, buon via. Poi ho provato, ovviamente, poi da tester ho provato anche barando, quindi mi sono inventato varie professioni, varie età, e ho cambiato anche sesso. Sempre l'Irlanda era la meta, quindi. No, ovviamente no, perché altrimenti, insomma, si fa presto a sgamare che no, invece, insomma, poi dipende, perché ogni domanda e relativa risposta ha un peso diverso. Ovviamente. Quindi, sai, magari uno cambia soltanto una risposta, però le altre risposte hanno un peso talmente tanto grande che poi viene lo stesso paese. Però la cosa è, come dire, statistica e anche scientifica, quindi, insomma, sui dati non si bara. Grazie davvero Filippo Tramelli, TheEuropeanJob.eu, per fare questo test. Ciao, buon lavoro! Ciao a te, a presto! Un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua, l'altra Europa. Europost-it. Concorso 60 anni dopo Messina. Dare nuovo slancio all'Europa. La conferenza di Messina 1955 è un momento della storia europea contemporanea e ha svolto un ruolo fondamentale nell'apertura della strada ai trattati di Roma del 1957. A 60 anni di distanza, il Consiglio italiano del Movimento Europeo lancia SMILE, Sharing Messina Ideal e Lesson for All Europe. Un concorso rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di età compresa tra i 14 e i 19 anni. I concorrenti sono chiamati a elaborare prodotti multimediali per proporre visioni e soluzioni sulle quali puntare ideali di pace, benessere e solidarietà tra i popoli. I lavori devono essere inviati all'indirizzo email info@movimentoeuropeo.it entro il 18 aprile. Per saperne di più, visitate il sito movimentoeuropeo.it nella sezione Notizie ed Eventi. L'altra Europa. Sonorità turche, lui è Can Bonomo, è un giovane cantautore turco. Con questa canzone ha partecipato all'Eurovision Song Contest del 2012. E perché lui? Perché parlare dell'altra Europa vuol dire raccontare anche l'Europa vista dalle estremità, dai confini lontani, cosa che facciamo spesso. E non abbiamo tanto tempo a disposizione, però quella che voglio fare oggi è una prima chiacchierata con alcuni volontari che hanno scelto di andare proprio nell'estremità dell'Europa. C'è con noi Davide Veronese di Sant'Urbano, provincia di Padova, e in questo momento si trova a Gaziantep, ai confini dell'Europa. Ciao Davide. Pronto Davide? Pronto, pronto, buongiorno. Ciao, buongiorno a te, ciao, benvenuto. Dov'è Gaziantep? Gaziantep si trova nella parte est della Turchia, diciamo che è a un passo dalla Siria. Uh-huh. E tu sei giovanissimo, insomma, hai 31 anni, stai facendo un periodo di volontariato. Grazie, sei giovanissimo. Stai facendo un periodo di volontariato insieme all'associazione Geged, credo si pronunci così. Con te ci sono anche altri italiani, Jessica Zinelli, Amo Giglio. Cosa state facendo? No, in breve, siamo qui con un progetto dell'EVS, l'European Voluntary Service, il volontariato europeo, per un periodo, per ognuno di noi è un periodo diverso, sono dai 2 mesi ai 7 mesi per quanto mi riguarda, e niente, ci si dà da fare un po' con i ragazzi siriani, con corsi di inglese per ragazze afghane, insomma, e con progetti di cittadinanza attiva nei confronti dei ragazzi turchi, uh-huh, in maniera di dare la possibilità ad ognuno di loro, insomma, di partecipare ai vari progetti europei. E per i siriani, insomma, per un supporto, ovviamente a livello, per quanto ci riguarda in questo momento, soprattutto a livello di inglese, corsi, raccolte e viveri, insomma. Uh-huh. Ma che quotidianità vivete e da che quotidianità siete circondati? Com'è la situazione lì? Guarda, la situazione è abbastanza tranquilla in verità nella città. Sì. Cioè, l'aria che si respira è un'aria comunque di sicurezza. Solo, per esempio, la settimana scorsa siamo stati facciamo tra virgolette una gita turistica, anche se comunque la finalità sono altre. Poi siamo stati a Suruç, che è nei pressi del confine con Kobane, e siamo andati, insomma, nel centro di coordinamento curdo per vedere, insomma, quello di cui hanno necessità in questo momento. La situazione è, da quelle parti comunque in questo momento è più tranquilla rispetto al passato. Sì. Diciamo che il 90% della città di Kobane è stata riconquistata dai curdi, insomma, contro le forze dell'ISIS. Mm. Mentre per quanto riguarda i campi profughi, diciamo che hanno necessità soprattutto di beni di prima necessità, di latte in polvere, insomma, perché le madri non riescono ad andarne, e omogenizzati per i bambini. Mm-hmm. Comunque stiamo cercando, insomma, di diffondere un pochino anche queste necessità, questi bisogni, in collaborazione appunto con questo centro di coordinamento curdo. Davide, ma insomma, cosa? No, immagino che siano giornate molto diversificate. Sì. Cosa significa essere, insomma, tu hai 30 anni, i tuoi colleghi sono anche più giovani, avete fatto scelte professionali, scelte anche formative indirizzate, tu abbia fatto scienza dell'educazione, quindi insomma vuol dire certo. Sei attinente a questa cosa, però cosa significa essere lì e portare comunque anche un pezzettino d'Europa? Guarda, insomma, significa cercare di dare il nostro aiuto, insomma, a persone che in questo momento hanno necessità. Giusto per fare un esempio, qua funziona molto questa cosa della solidarietà fra persone. Capita, per esempio, a noi di girare, di viaggiare anche in autostop, no? Giusto per fare un esempio. E molte persone, perché comunque, insomma, siamo volontari qua, quindi non riceviamo molto denaro, ma le persone comunque sono molto accoglienti, veramente molto. E capita insomma che anche ti portino, ti offrono da bere, c'è il classico tè, eccetera, per cui insomma è uno scambio. E loro ci ringraziano aspettamente dal centro coordinamento curto, insomma ricevono veramente la semplice presenza sul posto, per loro è molto significativa. Il fatto stesso di poter poi dire al mondo insomma la loro situazione e di sensibilizzare gli altri paesi insomma per quanto riguarda loro, diventa comunque una cosa importante, per cui ringraziare. E per cui insomma, giusto per concludere questo discorso, insomma, è un dare e un ricevere, una cosa che comunque diamo e comunque anche riceviamo, è un arricchimento oltre che un dare, insomma. L'elemento della paura ogni tanto entra in gioco? Diciamo che per quanto riguarda la paura, onestamente, in 6 mesi che sono qui non ne ho mai avuta. Ecco, insomma, questo è importante. Dai. Davide, ti ringrazio per questa prima chiacchierata. E vorrei, insomma, nelle prossime settimane ci risentiamo sicuramente con te, certo, con i tuoi colleghi, per conoscere questo lavoro, per conoscere l'Europa anche là, dove si cerca di portarla e dove l'Europa è un ponte di cultura, un ponte di incontro, un ponte anche per dare aiuti concreti in questo anno che è anche l'anno dello sviluppo. Grazie davvero, in bocca al lupo. Ciao Davide, a presto. Grazie, altrettanto, grazie. E questo grazie va a tutti voi come sempre per essere stati in nostro ascolto. Un grazie a Claudia Schiattoni in assistenza oggi insieme a Valeria Bernardi che ha giocato con i tasti, Silvia Righini e Miriam Lucchetti invece con me hanno scritto la puntata. Radio24.it è il nostro sito. L'appuntamento come sempre a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.